Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La droga partiva dalla Colombia a bordo di velieri che attraversavano l'oceano diretti in Spagna. Poi i narcotrafficanti la smerciavano in giro per l'Europa fino in Italia. Un maxi traffico internazionale di cocaina scoperto grazie alla collaborazione straordinaria dei finanzieri del GICO di Catanzaro, della DDA di Reggio Calabria, della Guardia Civil spagnola e della DEA americana. 34 persone sono state arrestate questa mattina all'alba in Italia, tutti presunti affiliati dell'andrangheta calabrese, mentre in Spagna sono in corso altri arresti. Il traffico di droga è stato scoperto un anno fa. Il 25 agosto 2014 alcune navi spagnole, con l'aiuto della polizia portoghese, abbordarono una barca a vela con 856 kg di cocaina nella stiva. All'inizio del 2015 al largo delle Canarie fu scoperto e sequestrato un altro veliero con oltre 700 kg di droga. Le indagini condotte dal gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza e dall'Agenzia federale antidroga statunitense... Che ne sapete voi della cocaina? 80024 0024, perché vi faccio questa domanda? Perché ormai il termine cocaina è uscita da una sorta di linguaggio di passo, di parola proibita, detta mezza bocca. Oggi ovunque si parla di cocaina. Oggi in qualunque locale si vada, oggi in qualunque ufficio si vada, oggi in qualunque ambiente di lavoro si vada, chiunque si frequenti comunque, la idea, l'idea, il concetto di cocaina giace sotto traccia, ma nemmeno troppo nascosto, abbastanza evidente. Non c'è festa in cui non ci sia qualcuno che frettolosamente se ne va al bagno, ma molte volte te la offrono palesemente. Nei locali si vede chiaramente qual è il via vai, chi compra, chi vende, chi spaccia, chi passa. Addirittura le Iene hanno fatto una sorta di inchiesta, facendo un test in maniera naturalmente impropria a dei parlamentari italiani, e dai loro dati un parlamentare su tre tirerebbe cocaina. Ma il dato è anche abbastanza rilevabile anche in altri tipi di ricerche: un milanese su tre tira cocaina. Sembra che in Italia, tra le tante eccellenze e tra i tanti luoghi comuni da attribuire al nostro paese, ci sia questa sorta di accettazione, sedimentazione, di entrata nel linguaggio comune, negli usi comuni del fatto che esista la cocaina. Ma non è che la cocaina faccia bene. Di cocaina si muore, di cocaina si parte di testa, di cocaina, la cocaina distrugge le vite. Beh, questa mattina vorrei tracciare quello che è il percorso della cocaina, e soprattutto in questo percorso, in questa variegata e complicata mappa, quanto è importante il Made in Italy, quanto in questo noi abbiamo raggiunto un'eccellenza. Non lo dico con una facile ironia per voler fare cattivista a tutti i costi, no, voglio capire bene, voglio sapere in quanto la nostra capacità di ottenere risultati applicata alla malavita organizzata, applicata al crimine nel campo della cocaina, che è un campo complicatissimo, difficilissimo, pericolosissimo, con dei settori spietati e implacabili e perfettamente abituati a trattare in maniera totalmente indifferente chiunque faccia la ombra, gli italiani si hanno fatto strada. Per fare questo ho questa mattina ospite un personaggio che ha dedicato la sua vita alla lotta alla criminalità organizzata, ma in particolar modo a una certa area territoriale, quella della Calabria. Dottor Nicola Gratteri, buongiorno. Buongiorno. Dottor Gratteri è un magistrato, è anche uno scrittore, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, e proprio sulla cocaina ha appena pubblicato un libro, ha fatto vari libri. Oltre a fare il procuratore, poi la materia della sua opera quotidiana come magistrato la traduce in libri, ha una facilità di mediazione questa mattina di cui noi usufruiremo. Ha scritto un libro, dicevo, con Antonio Nicaso, Oro Bianco, storie di uomini, traffici denaro dall'impero della cocaina, Mondadori 2015. Quello vorrei capire subito, dottor Gratteri, visto che questa è proprio la sua materia, come abbiamo fatto noi italiani, in particolare noi calabresi, diciamo così, noi nel senso in senso lato, a acquisire questo posto centrale nel grande traffico della cocaina internazionale? Ma dovremmo intanto fare un accenno e tornare agli anni 80, quando le multinazionali attraverso le trasmissioni televisive, che sono alcune trasmissioni televisive di intrattenimento uguali in Europa come negli Stati Uniti, cambia solo il presentatore della lingua, hanno creato una sorta di omologazione di usi, consumi e gusti. Negli anni 70, a seconda di come ci si era vestiti, si capiva chi era di destra e chi era di sinistra. Se io avessi chiesto quale cantautore ti piace, ovviamente al 99% mi piace Battisti, era di destra, fascista. Mi piace Vecchioni, certo. Vecchioni era di sinistra. Poi le multinazionali, i consumi, sentirsi diverso se non si hanno le scarpe da 300 euro, sentirsi diverso se non si ha il telefono da 700 euro, ha portato a un'omologazione di gusti, e questo anche nell'uso nel drogarsi. Negli anni 70 la cocaina era una droga di nicchia, dei ricchi. Poi questa omologazione ha portato, alla fine degli anni 80, negli anni 90, ha portato all'80% dei tossicodipendenti cocainomani, quindi la cocaina ha incominciato a usarla il chirurgo, il gruista, il ruspista, il conduttore di treni, di aerei, il poliziotto, il magistrato. È diventata una droga per avere una prestazione più efficiente nel campo professionale. Sì, quella prestazione che dura due ore e mezza, salvo poi cadere in depressione e occupare il resto del tempo a cercare la dose successiva. Quindi è superare i freni inibitori, quindi riuscire a passare col rosso, riuscire a entrare in una curva a 150 orari, riuscire a relazionarsi con una donna per un'ora non avendone il coraggio e la capacità, questo dà l'effetto della cocaina. Allora questa omologazione ha portato quindi a una grande richiesta di cocaina, e la contingenza è stata che Cosa Nostra ha avuto grossi problemi con lo Stato, perché Cosa Nostra ha pensato nel suo delirio di onnipotenza, in particolare i corleonesi, in particolare ancora Riina, pensa che Riina è l'uomo di Cosa Nostra più odiato da Cosa Nostra, perché è stato l'inizio della fine di Cosa Nostra, nessun delirio di potenza ha pensato di dettare l'agenda allo Stato. Lo Stato è stato costretto a reagire, quindi si è concentrato su Cosa Nostra, sottovalutando l'andrangheta, considerandola fino a pochi anni fa una mafia stracciona col cappello in mano, eccetera, eccetera. Invece l'andrangheta, dopo la stagione di sequestri di persona negli anni 80, quando il 90% dei sequestri di persona avvenuti in Italia era in mano all'andrangheta, con quei soldi, oltre ad essere ricostruiti il palazzotto e ad essersi comprata la macchina di lusso, anche perché allora le misure di prevenzione non erano così evolute come oggi, hanno incominciato a mandare uomini, decine di uomini come io broker. Ricordo c'era un villaggio chiamato Polghetti, per esempio, sì, essere costruito a Bovalino Marina, costruito con i soldi del riscalto Polghetti, esatto, lo sapevano tutti, esatto. Quindi con quei soldi allora all'inizio degli anni 90 hanno incominciato a comprare cocaina a prezzi bassissimi. Allora l'andrangheta è diventata leader in Europa, in Colombia per quanto riguarda l'acquisto, in Europa per quanto riguarda la distribuzione all'ingrosso, perché è una mafia che non ha collaboratori di giustizia, grazie all'affiliazione familistica, dove due o tre famiglie patriarcali formano un'organizzazione, formano quindi un locale. Poi ha soldi in quantità ed è talmente credibile che riesce a comprare in controvendita, mentre le altre mafie, ad esempio Cosa Nostra o la Camorra, per avere la droga, se non hanno i soldi, devono lasciare lì in Colombia un uomo, due uomini in ostaggio, in modo tale che se non arrivano i soldi dall'Italia verso la Colombia, quelle persone saranno uccise. L'andrangheta calabrese non ha meno bisogno di questo. Non ha bisogno, e questo l'abbiamo documentato anche in un'indagine importante, dove un capo decino di Palermo Centro lo stavano per ammazzare. È intervenuto anche un capomandamento come Mangiaragino di Trapani e per farlo liberare, niente da fare, è intervenuto un broker dell'andrangheta della Ionica, è bastata la parola di questo broker per salvargli la vita. Ecco, questo è il grado di credibilità dell'andrangheta. Ecco, lei che è anche calabrese, mi fa capire esattamente chi è stato, dal punto di vista del cinico, come potrei dire, l'uomo di genio che ha capito che il passaggio era il momento giusto storicamente, perché il costume stava virando verso l'efficientismo sfrenato, quindi c'era bisogno di una sostanza che rendesse tutti all'altezza del tempo che stavano vivendo, la mafia siciliana era sotto tiro e quindi in quel momento aveva altri problemi, che trasformare un meccanismo in fondo agreste, rurale, basato su una sorta di tradizione proprio territoriale, che ha fatto il salto, è andato in Colombia, ha preso contatti e si è reso credibile. C'è un nome, una circostanza? Sì, certo, abbiamo famiglie come i Barbaro di Platì, gli Strangio, i Nirta di San Luca, i Pelle, Morabito, e queste sono famiglie di Commis di Siderno, sono famiglie di elite dell'Andrangheta. E sono mossi loro verso il territorio di produzione che era la Colombia, sì, o hanno stabilito contatti? Loro, il compito loro è quello, loro sono i finanziatori, sono le persone che loro la cocaina non la toccano, loro sono persone che raccolgono i soldi, hanno i soldi e mandano loro uomini per fare gli acquisti, cioè per organizzare il trasporto, per organizzare per far arrivare 2000 kg di cocaina ci vogliono almeno 40-50 uomini nelle varie fasi, e per ogni fase c'è un gruppo specializzato. Anche io ho letto del suo libro che arriva in quantità industriali, immersa nell'altra merce, nei container, e c'è una catena impressionante di persone che scaricano i container, cioè bisogna essere dappertutto. Sì, noi in Europa sequestriamo non più del 10% della cocaina che arriva. E quant'è quella che sequestrate? Sequestriamo, lei pensi che solo come Reggio Calabria sequestriamo 3-4 tonnellate l'anno? Solo quindi sono 40 tonnellate che entrano in Italia ogni anno? Sì, lei pensi che solo al porto di Rotterdam 2 settimane fa abbiamo sequestrato 3.000 kg, solo in un carico. Quindi la quantità è enorme, e vuol dire che le regole di ingaggio, come dicono nei teatri di guerra, sono sbagliate. Ecco, ci ricorda qual è il rapporto del guadagno netto sulla cocaina, dal produttore all'ultimo consumatore? Allora, un chilo di cocaina in Colombia costa 1.200 euro, un chilo, con un principio attivo del 98%. Quindi abbastanza pura? Pur 98% è quasi pura tutta, perché resta il 2% di scorie. Allora, di questo 98% si può tagliare, cioè miscelare con ad esempio mannite, e farne da un chilo 4 chili, perché fino al 23-24% è effetto stupefacente. Quindi io un chilo lo pago 1.200 euro, da un chilo ne faccio 4, poi un grammo costa 50 euro. Quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita più redditizia al mondo. Non esiste al mondo nulla che fa guadagnare quanto la cocaina. Nulla che fa quanto guadagnare la cocaina. Sta chiamato Antonio. Scusi, dottor Gatteri, gli ascoltatori stanno intervenendo, seguono con interesse. Chiama Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Io premetto che sono affascinato dal dottor Gatteri. Ho letto tutti i suoi libri, cioè nel modo, nel parlare, nel fare le cose. Io chiedevo solo questo. Ma come si stanziano soldi veri per combattere, oltre a quello che già si fa, ripeto, ho letto tutti i libri, ma come mai c'è la polizia che ha mezzi che ha 400-500 mila chilometri, per me sono cose assurde, come mai non... Lei è un agente di polizia, immagino, che conosce così bene. Sì, lei dice, come mai? Con me non si spendono soldi per la cocaina. Adesso le risponde il dottor Gatteri. Certo, ha appena detto quali sono i margini di guadagno sulla cocaina, per quanti soldi si spendano, si guadagneranno sempre migliaia di volte più per quelli che la producono. Dottor Gatteri, la domanda a Gatteri, al suo... Rispondo con piacere a questa domanda. Allora, io ritengo che questo tipo di... Intanto la legislazione antimafia italiana e quella in contrasto alle mafie è la più evoluta al mondo. Il dramma è che, ad esempio, l'Europa non è attrezzata a questo contrasto alle mafie. L'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare. In Europa non c'è la percezione da parte degli stati della presenza e della pervasività dell'andrangheta o della camorra, perché lì le mafie in Europa fanno due tipologie di reato: vendono cocaina e comprano e riciclano. Due tipologie di reato che non richiedono il morto a terra, non ci sono le serrande bruciate, quindi non creano allarme sociale. Quindi la politica non è costretta ad intervenire. La popolazione non se ne rende conto, perché solo gli addetti ai lavori si rendono conto che i soldi della droga drogano il mercato, fanno saltare le regole del mercato. Ecco, dottor Gatteri, le faccio un esempio. Improvvisamente in delle città si aprono catene di farmacie, ristoranti tipici, pizzerie. Come reinveste poi l'andrangheta, il fiume di soldi che guadagna la cocaina ogni giorno nelle nostre città? Guardi, lo investe soprattutto in alberghi, ristoranti, pizzerie e nel mondo dell'edilizia, perché l'andrangheta è molto presente nel campo dell'edilizia, nel centro e nord Italia, perché offre manodopera a basso costo, soprattutto se i subappalti è fortissima, perché mette o assume operai in nero o sottopagati. Ma abbiamo delle leggi severissime. Chi deve ristrutturare una casa deve portare migliaia di certificati. Come si fa? Non basta il controllo che c'è, però volevo, torniamo su questo punto, volevo dare la mia ricetta per risolvere il problema della cocaina. Allora, noi con un quarto dei soldi che il mondo occidentale spende per contrastare le mafie, si potrebbe risolvere il problema del traffico di cocaina. Perché? Allo stato naturale la cocaina si produce solo in Colombia, Bolivia e Perù. Negli altri stati non cresce la pianta, perché c'è un microclima, c'è il clima tropicale che consente questa crescita delle piante. Io sono stato con Antonio Di Caso nella foresta amazzonica una settimana, sono stato a vivere lì con l'esercito colombiano che si addestra in un campo, ho visto le coltivazioni, ho imparato a conoscere i 10 tipi di coca che esistono e a capire come le mafie, l'andrangheta in contatto con le FARC, che sono i terroristi di ispirazione leninista marxista, sono circa 40.000, assumono biologi, agronomi per modificare geneticamente le piante per resistere agli avvelenamenti che l'esercito fa con gli aerei. Allora, poiché questo, quindi c'è una struttura scientifica imponente. Certo, ma poi non parliamo delle sostanze chimiche che vanno a inquinare la foresta amazzonica. Una parte della foresta amazzonica la stanno desertificando, perché per coltivare un ettaro di coca ci vogliono bisogna disboscare 4 ettari. Quindi è cambiato proprio il territorio, la morfologia del territorio. Pensi che per arrivare alla cocaina base ci vogliono 10 processori chimici. Questi processori chimici che vengono comprati dalle multinazionali, sono solo 3 multinazionali che portano questi precursori chimici. Quindi la sua ricetta, dottor No, Gattelli. Ancora non sono arrivato. Ah. Allora, torno alla ricetta. La mia ricetta è questa. Noi avremo bisogno di un'ONU diversa. L'ONU dice, fa questo ragionamento, voi stati non siete riusciti a risolvere il problema della cocaina, siccome il problema della cocaina incide sulla salute mentale e fisica del mondo occidentale, della popolazione occidentale, noi ONU ti diciamo, interveniamo, scendiamo sulla terra rossa con i baschi blu, sulla terra rossa della Colombia e diciamo e trattiamo direttamente con i cocaleros. E diciamo, se voi piantate coca guadagnate 100, se piantate Gran Turco guadagnate 40, noi vi diamo il mancato guadagno, vi diamo il 60, così solo in questo modo, e con l'ONU che sta lì sul territorio per vedere che effettivamente piantano Gran Turco. Sì, perché conviene intervenire alla partenza dove costa certo, poco ancora. Perché noi non possiamo dare i soldi a certe amministrazioni corrotte per gestire, perché altrimenti finiamo come l'AIMA con le arance. Quindi il morto di fame che vive di cocaina e si dice, guarda, ti do io quei 4 soldi in più che ti danno i grandi commercianti di droga, però coltiva il Gran Turco che è meglio anche per te. Questo. In questo modo noi risolveremo il problema della cocaina. Poi ovviamente c'è il problema dell'eroina in Afghanistan, perché purtroppo la guerra in Afghanistan ci ha rovinato, è servita solo da Però oggi teniamoci la cocaina, io la richiamerò a parlare delle altre droghe, però ci fermiamo solo un istante, poi lei mi dice nei prossimi 5 minuti che avremo a disposizione, perché poi volteremo pagina, presenteremo anche altri aspetti, quanto in realtà però questo scombinerebbe una certa economia, e non dico soltanto economia malavitosa, economia di indotto che è comunque alimentata da questo mercato. Fa un istante. Sei un'azienda e vuoi sbaragliare le aziende concorrenti? Agenti.it ti invita a Forum Agenti Milano, la fiera di ricerca agenti di commercio. Vai su agenti.it e prenota il tuo stand a Forum Agenti Milano. Incontrerai i tuoi nuovi agenti e batterai la concorrenza. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. 26-28 novembre, Fiera Milano City. Nuova Smart Fortwo con il nuovo cambio automatico super veloce. Proprio mai. E allora davvero non cambi mai. Nessuno più ti può fermare. Tua anche con un anno di RC Auto e assicurazione furto incendio completamente gratuiti. Solo con finanziamento Mercedes-Benz Financial. Vieni a provarla. Infosmart.com. Smart. Professor Barter, vedo che il business cresce proprio bene. Tutto grazie a Cambio Merce con Gruppo Next. Non abbiamo più eccedenze di magazzino, prodotti che scadono o cambiano packaging. Bene, Barter, ottima soluzione. Gruppo Next, per trasformare i vostri prodotti in pubblicità. Gruppo Next, campagne pubblicitarie in Italia e nel mondo. Tutto senza esborsi, solo con i vostri prodotti. Da oggi potete promuovere il Made in Italy in televisione in tutta Europa in 13 lingue. Consultate Gruppo Next e pubblicità in cambiomerce.it. Il Museo della Follia a Mantova. Il Trittico di Antonello da Messina a Milano. Le sculture di Nicola e Giovanni Pisano a Milano. Eventi unici di un programma unico. Expo Belle Arti Lombardia. Mostre e visite straordinarie per scoprire gli inestimabili tesori d'arte in Lombardia. Un progetto di Regione Lombardia a cura di Vittorio Sgarbi. Consulta il programma su expobellearti.regione.lombardia.it. Hai mai comprato prodotti biologici? Scopri Vivi Verde Coop, alimenti biologici buoni, sani e genuini che rispettano te e l'ambiente, e prodotti ecologici realizzati con criteri sostenibili per garantire il minimo impatto ambientale. La Coop sei tu. Vuoi vendere i tuoi prodotti negli Stati Uniti? Gen USA offre alle aziende la gamma completa di servizi per entrare nel più grande mercato del mondo. Personale specializzato in Italia e negli Stati Uniti seguirà per voi tutte le fasi dello sviluppo commerciale. Potrai avviare con successo trattative di vendita, creare una rete distributiva o avviare una tua filiale per competere con le aziende locali. Gen USA fa crescere il fatturato della tua azienda. gen-usa.com. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Un saluto da Paolo Corazzon di Trebi Meteo agli ascoltatori di Radio 24. Fino alla fine di oggi situazione un po' delicata nelle estreme regioni meridionali, soprattutto sul versante ionico rischiamo ancora degli acquazzoni, dei temporali di moderato forte intensità, ma fortunatamente questa sera la perturbazione si allontanerà dall'Italia. Perturbazione che tra l'altro sta portando anche venti sostenuti, di conseguenza mari molto mossi in tutto il sud e anche temperature contenute. Però ripeto, a fine giornata il tempo migliore per alcuni giorni nelle regioni meridionali, possiamo stare tranquilli. Al centro-nord la situazione è migliore con anche delle belle schiarite, insistono un po' di nuvole al nord-ovest, anche domani la giornata inizierà con qualche nuvola sulle regioni nord-occidentali ma senza grandi conseguenze. Al centro-nord però vi devo segnalare temperature contenute a inizio giornata. Con questo è tutto, ma per rimanere aggiornati potete anche scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo. Mangiamo qualcosa insieme? No, è che devo fare una scappata a pagare una rata della mia pensione integrativa. La pensione? Ma se non hai neanche 40 anni? Allora, in Italia ci sono sempre più anziani, quindi sempre più pensionati. E secondo te, con quali soldi vengono pagate le pensioni adesso? Con i nostri. E dove sono queste schede di neoassunti che pagheranno le nostre le pensioni? Tu le vedi? Io no. Ma da quando è che sei così esperta? Da quando ho letto il libro di Deborah Rosciani, si chiama Donne di Denari. Adesso scusami, sono in ritardo. Donne di Denari, le strategie vincenti per gestire il tuo denaro. Sono Bill Wright, consulente riduzione costi. Qui in Volkswagen vi siete inventati la Polo Cross, bellissima, più alta, maggiore visibilità, perfetto. Ma in più, protezioni sottoscocca, protezioni laterali, protezioni posteriori, troppe protezioni, eliminiamole. Chi compra Polo Cross vuole l'avventura. Scopri nuova Polo Cross, tua anche con finanziamento TanZero TAEG 2.18. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Volkswagen.it. Assistenza software gestionale, dica. Non mi ricordo più. Affidarti a quel software gestionale ti era sembrata una buona idea? Ora puoi cambiare. Da 35 anni Team System sviluppa innovativi software per aziende e professionisti. TeamSystem.com. Allora, nella borsa ti ho messo un po' di lasagne di ieri, che oggi sono ancora più buone, la parmigiana di melanzane della nonna, il tiramisù che ho fatto stamattina. Tutto qui? Hai ragione. Tieni anche il polpettone. Il pranzo di tua mamma ti dura una settimana? Conservalo nel modo giusto grazie ad un'offerta imperdibile. Fino al 13 settembre 2015, se sei socio IKEA Family o IKEA Business, avrai il 15% di sconto in cassa su una selezione di contenitori per la conservazione degli alimenti. Info su IKEA.it. Se l'Expo guarda al futuro, andiamoci con chi ha la stessa ottica. Europcar ti porta all'Expo con la nuova Fiat 500X, con una tariffa lungimirante, 39 euro IVA inclusa, dall'Inate, Malpensa e Orio al Serio, con carburante e navigatore inclusi. In più, parcheggio riservato e deposito bagagli sono gratuiti. Scopri tutti i vantaggi dell'Expo di Europcar su europcar.it. Europcar. Moving your way. Tutta la tecnologia di MediaWorld è a tasso zero in 10 o 20 rate. Questo per noi è farti scegliere. Solo fino al 13 settembre. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, TAN e TAI 0%, salvo approvazione finanziaria. MediaWorld. Voglio il mondo. Melog. Cronache meridiane. Ho 800 24 00 24. Questa mattina parliamo di cocaina, vista dal punto di vista del grande affare nel quale noi italiani siamo stati molto bravi. Ne parliamo con Nicola Gratteri, magistrato e scrittore, procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, che ha appena pubblicato un libro scritto con Antonio Nicaso, Oro Bianco, storie di uomini, traffici denaro dall'impero della cocaina, Mondadori 2015. Il dottor Gratteri ci stava dando quella che è la sua formula secondo la quale si potrebbe intervenire, perché sembra qualcosa in cui è talmente esteso il mercato e la domanda per cui sembra impossibile metterci mano. Un ascoltatore, dottor Gratteri, mi scrive: cocaina libera, qual è la vostra opinione? Assolutamente, io penso che uno Stato democratico si deve preoccupare della salute non solo fisica ma anche mentale dei cittadini. Uno Stato non può liberalizzare, non può vendere ciò che fa male alla gente. Io per mia natura sono contrario anche alla vendita dei superalcolici o ai videogiochi nei bar. Io sono contrario a tutto ciò che crea dipendenza. Io sogno un popolo libero da qualsiasi condizionamento, un popolo drogato e un popolo ricattabile, soprattutto chi ha responsabilità istituzionali, chi ha responsabilità importanti, può essere ricattato in qualsiasi momento. La liberalizzazione non risolve il problema. Le faccio un esempio: in questi mesi abbiamo letto delle relazioni di uomini delle istituzioni che hanno scritto letteralmente per impoverire le mafie cominciamo a liberalizzare la marijuana, la cosiddetta droga leggera. E lei come la pensa nel caso? Assolutamente, è una grande sciocchezza, e le dico perché. Su 100 tossicodipendenti, solo il 5% sono tossicodipendenti dalle cosiddette droghe leggere, cioè marijuana, hashish. Di questo 5%, solo il 25% sono maggiorenni. Quindi noi la droga la potremmo vendere, liberalizzare solo al 25% del 5% del totale, quindi una cosa ridicola. Non vale meno la pena di pensarci. A meno che non vogliamo dire vendiamola anche ai minorenni. Quindi quando si scrivono queste cose bisogna prima studiare, bisogna aver fatto qualcosa nella vita, bisogna aver lavorato per poter dare un'opinione, non per il fatto che io formalmente mi trovo in quel posto. E purtroppo poi spesso la politica che non è esperta ma legge si fida e si convince che sia una cosa vera, che sia una cosa giusta. Ma l'ultima cosa, dottor Gratteri, sì, perché dobbiamo lasciare fra un minuto, ma poi lei si prenderà con noi l'impegno di tornare, perché questo è un argomento che va trattato con tempo e attenzione. Rispetto alla sua formula, una volta che la malavita organizzata, per assurdo e per fortunata circostanza, si trova tagliata una fetta così importante del suo mercato, come reagirebbe se andasse in porto la sua proposta, quello che già stanno facendo le Nazioni Unite? È un'utopia quella che vi ho proposto io, perché non sarà mai fatta, perché l'ONU è debole, come il pensiero debole del filosofo Vattimo. L'ONU è il posto degli sfegati, è il posto degli stati poveri, perché Stati Uniti, Russia, Cina, India, Germania, Inghilterra, Francia, i loro problemi si discutono tra di loro in altre sedi. L'ONU serve solo per mettere i veti e per fare i giochi da guerra fredda. Quindi è troppo complicato pensare di fare un'operazione così capillare e così importante. Esatto, perché l'ONU come sua struttura è debole grazie ai veti delle superpotenze. E qua quindi si freeranno le mani tutti quelli che, certo, questo immenso traffico comunque sia con le mani pulite, senza toccare con mano cocaina, senza stringere la mano all'andranghetoso o al camorrista o al mafioso, comunque si costruiscono i loro belli palazzi, fanno i loro belli investimenti, vedono le loro belle pizzerie, gelaterie e negozi. Dottor Gratteri, noi ci salutiamo qui, che voglio cambiare pagina e voltare pagina su questo argomento. Ci sentiamo quanto prima, perché ci continua con il suo affascinante discorso. A tra poco. C'è gente che lo fa solo in compagnia di altre persone, quindi comunque senza comprarla, vabbè, scrocchi, testa di cazzo, lo fai per quello. Alcuni lo fanno per scopare, in realtà quando ci sei dentro non ti si drizza neanche un dito, cioè che cazzo fai? Non sanno cosa stanno facendo, cioè si infilano nel naso una sostanza perché lo fanno, non lo so neanche io perché lo fanno sti cretini. E intanto lo fa anche lui. Questo è un documentario molto crudo, un film trasmesso da Fox, Biancaneve, che è una presa diretta su persone che si fanno di cocaina. Proprio la dimostrazione del fatto che non è che siano tutti belli, splendidi, rubacuori, efficientissimi, stupende, bellissime, misteriose, maliarde. I consumatori di cocaina, alla fine, proprio che abbiamo capito, la cocaina non è, certo, è una sostanza in cui ci passa il cemento, la calce, gli acidi, i veleni più schifosi, allungata così, non è che sia qualcosa che non lasci tracce anche nell'aspetto fisico e nella compattezza mentale. Questo meglio di qualunque altra persona può dircelo adesso Lucia Santon. Buongiorno Lucia Santon. Buongiorno Nicoletti, buongiorno a lei e agli ascoltatori. È una psicologa e coordinatrice di CARE, Cocaine Addiction Rehabilitation Enforcement, che è la struttura pubblica finanziata dalla Regione Lazio per il trattamento di persone dipendenti da cocaina. Da voi vengono volontariamente o in qualche maniera vengono invitati poi a seguire questo percorso? Vengono volontariamente, nel senso che sono persone libere, quindi mi riferisco a situazioni di pene alternative alla detenzione. Noi non accogliamo questo tipo di persone, quindi da questo punto di vista sono libere, e di conseguenza l'accesso è volontario. Per quanto riguarda poi un discorso di motivazione loro interiore, chiaramente lì si attiva tutta una situazione di pressione da parte dei familiari e quindi poi da parte dei servizi, affinché la persona aderisca ad un trattamento, perché la motivazione di queste persone è estremamente fluttuante. Ecco, dalla sua esperienza, dottoressa, un cocainomane quando comincia a rendersi conto di avere un problema? Può impiegarci anche moltissimi anni, e parlo di 10, 15, a volte anche 20, perché è un tipo di sostanza che si adatta in un certo senso molto bene anche allo stile di vita, diciamo, attuale, quindi esiste un tempo molto lungo in cui il consumo è integrato, diciamo, all'interno dello stile di vita, quindi dell'attività lavorativa, delle relazioni familiari. Probabilmente inizia già un percorso di abuso e di dipendenza, ma la persona inizialmente non se ne rende conto. Di solito se ne rende conto dopo moltissimi anni, quando psicologicamente inizia a sentirsi molto male o quando ha un rimando dall'esterno di problemi emergenti. Quindi parlo di debiti, parlo di perdita del lavoro, di rottura di relazioni familiari. Ecco, qualcuno ha cominciato a far girare da qualche tempo delle foto devastanti, come un po' le immagini sui pacchetti, le sigarette, degli organi corrotti dalla nicotina, di cocainomani a stadi ultimi con il volto devastato, senza più naso, senza più bocca e via dicendo. Ci sono anche dei segni fisici che danno, nelle fasi più estreme, che danno anche il segno dell'effetto reale, concretamente visibile della sostanza? Mi viene da dire non di questo tipo, almeno non per quanto riguarda la mia esperienza, l'esperienza del nostro servizio. Non siamo mai arrivati a vedere, insomma, persone ridotte fisicamente in questo modo, con le caratteristiche presentate in queste immagini, insomma, sono chiaramente e volutamente immagini shock. Esistono tuttavia dei segni di deterioramento sia mentale che fisico, magari non così palesi e non così scioccanti, ma che senza dubbio sono presenti, quindi possono subentrare problemi di pressione, problemi cardiaci, può subentrare una difficoltà nel mantenere la concentrazione, la memoria, nello stabilire relazioni anche emotivamente significative. Insomma, sono persone che tendono ad un isolamento e ad una povertà emotiva veramente notevole. Sempre dalla sua esperienza, in conclusione, dottoressa Santon, quanto se ne esce? In che percentuale la gente può dirsi a un certo punto ce l'ho fatta, ne sono uscito? Questo è un discorso che era molto dibattuto ai tempi in cui l'eroina primeggiava. Oggi con la cocaina sembra più diverso, più fluttuante e meno preciso il percorso di uscita, di abbandono della dipendenza. Sì, sicuramente. Noi come servizio regionale cerchiamo di prestare sempre grandissima attenzione a questo aspetto di valutazione e di verifica degli esiti. Lavoriamo da 4 anni, quindi io posso parlare, diciamo, per quanto riguarda il nostro servizio, come programmi conclusi e conclusi con successo, e intendo dire il raggiungimento degli obiettivi che uno si era prefigurato, insomma, qualsiasi essi siano, diciamo oscilliamo su un 25-30%. 25-30%. Grazie dottoressa Lucia Santon. Diamo la linea al traffico, riprendiamo dopo a parlare di cocaina, ma con un altro cambio pagina. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta. Ma Melog. Cronache meridiane. E che fai? Che fai? Questo non sai che cos'è? Certo, come fai a saperlo? È una medicina, un medicinale. Medicinale? Sì. Ma perché sei malato? Purtroppo, è una condanna. La devo prendere 3-4 volte al giorno, guarda, mentre calma. Porca miseria, ma che malattia hai? Ho il diabete. Porca miseria. Non me va nessuno giù. Lo so, è tremendo. Il cambio di pathos e di pagina può sembrare molto drastico, ma ha una sua motivazione. Com'è, dopo aver parlato a lungo di cocaina, della centralità dell'Italia nel traffico internazionale di cocaina, dell'incidenza del consumo di cocaina tra le persone apparentemente, fra virgolette, normali, mandiamo Johnny Stecchino, che ha questo surreale dialogo con un signore che sta tirando una pista di coca e dice: no, sto prendendo la medicina per il diabete. Perché ho una tesi, e voglio dire se questa mattina in qualche maniera riesco a provarla o qualcuno potrebbe confutarmela. L'Italia, che è un paese che è un grande consumatore di cocaina, abbiamo sentito, le acque dei nostri fiumi sono piene di cocaina, un parlamentare su tre si fa di cocaina, almeno secondo le stime delle Iene, un italiano, un milanese su tre tira cocaina. Ma quando noi trattiamo il problema cocaina nel cinema, nella fiction, che in fondo è la rappresentazione più radicale della nostra essenza, con tutte le debite derive possibili dalla mediazione artistica, la trattiamo in maniera parodistica. Questa mattina in studio con noi è Giuseppe Sansonna a darci conforto ed elementi di valutazione su questa mia tesi. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ecco, noi abbiamo parlato seriamente finora di cocaina e adesso la parliamo come l'Italia la tratta attraverso la fiction. Ho sintetizzato il mio pensiero, dimmi il tuo punto di vista e vediamo nello specifico. In questo caso descrivi la clip che abbiamo mandato. Questo era Johnny Stecchino, cioè Paolo Bonacelli, appunto alle prese con questa inalazione appunto di droghe, di cocaina. In Italia la si è sempre trattata, come dicevi giustamente tu, in maniera parodica in virtù della pruderie che c'è rispetto agli aspetti legati alle droghe. Oppure, tranne in alcuni rari casi che andremo ad analizzare stamattina, si è potuto dare qualcosa di più vicino al cinema americano, qualcosa che vada ad analizzare il problema antropologico legato alla cocaina e alle droghe in generale. È un'oscillazione, è un attenuare attraverso la parodia quanto possa essere urtante l'argomento droga. Quindi, partendo da Johnny Stecchino, che vendi Benigni, con lo scopo quello di far sorridere, di divertire tutto, passiamo ad altri tipi di rappresentazione. Sei te che mi ha incannato, pezzo di merda! Sei te che te ne sei andato per i cazzi tuoi! A me ci pensi, eh? E mo come lavoro io? Ma che cazzo vuoi lavorare? Si è fatto come una pigna, guarda. A ripiede. Non messo il cazzo di pasticche. Dammi queste cazzo. Ho detto dammi queste pasticche. Che ce devi fare? Dammi queste cazzo di pasticche. Che ce devi fare? E butto, dai. Ma che? Dammi queste pasticche. Ma che butti? Dammi queste. Ma che butti? Dai. Ecco, qui è tutt'altro che una rappresentazione ironica o parodistica. Il film presentato a Venezia, postumo di Claudio Caligari, Non essere cattivo, presentato a Valerio Mastrandrea, suo amico, che lo ha aiutato a portare a termine un film anche dopo che è morto, e lo ha presentato. Claudio Caligari non è conosciutissimo dal pubblico nazionale, ma a Roma era un personaggio, per il film Amore Tossico, un film scellerato, maledetto, che faceva vedere dei ragazzi preda la cocaina, una sorta di distruzione totale, allora di eroina, ecco, perché erano anni dell'eroina, comunque dedite alla droga, ecco. In questo passaggio invece com'è l'approccio? Questo è Non essere cattivo, appunto, film presentato al recente Festival di Venezia. L'approccio è per l'appunto autentico, basato sulla reale esperienza, senza pruderie, senza enfatizzazione, come spesso invece accade nelle fiction, una rapida enfatizzazione da fenomeno raccontato in maniera molto superficiale, oppure la parodia che attenua. Qui invece c'è un'analisi profonda sul campo, un pedinamento della realtà che recitato magnificamente e che rende fino in fondo quali possono essere poi gli effetti reali. Qui si tratta di droghe sintetiche, il film è ambientato negli anni 90, quando erano in gran voga, anche sia come spaccio che come utilizzo, e tuttora è così. Era il racconto realistico, iperrealistico che faceva Caligari, del mondo della trans, nell'humus sociale che lui conosceva, i ragazzi di Amore Tossico che morivano sulla panchina con la siringa in vena, autentici tossicodipendenti, sono morti, qualcuno è morto davvero, come accadeva in molti, questi, moltissimi, quindi non c'era appunto il raccontare la droga come estasi pura, ne raccontava anche il dramma, la sofferenza, i nervi logorati, la sofferenza fisica, cristologica anche di queste figure nel caso di Amore Tossico. Qui si tratta appunto dei nervi tirati dalle droghe sintetiche, ecco, ci sono proprio l'analisi reale del cinema che guarda in faccia la realtà. Amore Tossico divenne un mito per quelli che si facevano gli strafattoni, era la loro Bibbia, perché li celebrava, era l'iconografia stupenda del morto per droga, come Pompeo di Andrea Pazienza, se vuoi, testamentario, li celebrava, ma allo stesso tempo, perché erano autentici, morto anche lui di eroina, da Andrea Pazienza, esatto, però ne coglieva anche gli aspetti grotteschi, come la realtà, se la segui da vicino, poi rivela comunque epifanie di grottesco. Ma al finale tu quanto c'hai? E c'hai due scudi da prima, anzi pure meno, l'ho preso un gelato. Ma come, dopo sfortetto hai più il gelato? Sì, ma prendo un gelato, beh. Enzo! Ah, cioè, non ti capisco, se sbattemmo per mettere insieme 4 lire e fare uno schizzo e tu devi aver gelato. Se ne va, no, più sì. I tempi sono passati, è cambiato molto riguardo al mondo della cocaina, che vive, sopravvive, quasi invisibile, non è più, è stato detto, la droga della trasgressione, della fuga, la droga che serve per mantenersi efficienti nel lavoro. Questi sono i ragazzi di Amore Tossico. Sì, sì, questo. Invece c'è un esempio dell'ipotesi del trattamento del problema cocaina in chiave di alleggerimento, come qualcosa che non appartenesse al nostro contesto sociale. Tu dici dal punto di vista comico, abbiamo sentito prima Johnny Stecchino, ma in generale la droga in Italia spesso è vista, ti ripeto, con pruderie, oppure ha bisogno di diventare qualcosa di farsesco, di comico, non essere analizzata per quello che realmente produce e perché viene utilizzata. Questo accadeva non soltanto nei tempi ultimi, anche nei tempi in cui di droga si parlava in maniera molto soffusa, apparteneva a un mondo di persone eccelse, non era certo un fenomeno popolare. Questa sì che verdura, ma sai come si chiama in latino questa? Maiurana, de maiuranibus, che tradotto in italiano significa maggiorana. Questa sì che è insalata, non quella porcheria che compriamo in città, dura, sfilacciosa. Tiena. Ecco, che anni siamo? Proprio per chiudere la trasmissione, mi piace fare questo passo indietro, però è significativo. Siamo nel 64, qui c'è Totò che parodizza il film di Aldrich che fine ha fatto Baby Jane, e quindi assume marijuana, non sapendo, pensando che sia comune insalata, che ha un effetto assurdo però rispetto a quello che è l'effetto reale della marijuana, cioè all'effetto della cocaina, di iperescitazione omicida. Quindi non si raccontano i reali effetti, cioè, le droghe vengono viste qualcosa di esotico e non conosciuto, non sondato con mano. Ma anche qua ci si scherza, però ci si gioca, si parodizza, si esorcizza il fantasma per non viverlo, non affrontarlo e magari eliminarlo, ma affrontandolo. Sì, come i ragazzini che mettono il talco sul tavolino, poi si fanno il selfie facendo i duri, stiamo facendoci una pista, ci mettono la farina di casa o il talco. C'è poco da scherzare, come abbiamo visto, il fenomeno è potente, il fenomeno è diffuso e soprattutto quando entra ormai sedimentato nella cultura generale, che è una cosa che tutti ci si dà di gomito, e si dice ma in fondo dai, e si mima l'atto, è estremamente più pericoloso. Grazie a tutti gli ospiti, a domani.